Soddisfatto, abbiamo fatto un accordo molto importante che nei prossimi anni migliorerà i salari dei lavoratori italiani e li farà aumentare come non sono aumentati negli anni precedenti. La CGIL è scontenta perché è incapace di prendere delle decisioni, qualunque decisione. E quindi purtroppo il mondo deve andare avanti. I problemi delle persone devono essere affrontati e risolti, i salari dei lavoratori devono aumentare con i contratti e quindi noi non possiamo permetterci il lusso di aspettare un'organizzazione che non è capace di prendere delle decisioni e di affrontare i problemi per quelli che sono.